Euroreportage. I giorni che hanno cambiato l'Europa, di Sergio Nava. I tre giorni che hanno cambiato il volto dell'Europa. Le elezioni europee del 25 maggio hanno fatto storia, e non solo per come le immaginavano le grandi famiglie politiche europee. L'affermazione euroscettica in Francia e Gran Bretagna ha rovinato infatti la serata a molti. L'onda anti-euro è arrivata e ha lanciato un chiaro messaggio alle istituzioni europee. Andiamo allora a ripercorrere con questo reportage il trittico di giornate che hanno rivoluzionato il continente. Torniamo a domenica, giorno del voto che abbiamo seguito all'esterno di un seggio a Bruxelles. La decina di interviste che abbiamo realizzato con i votanti ci ha restituito l'immagine di un quartiere prevalentemente frequentato da europeisti convinti. I risultati del Belgio, al contrario, hanno poi assegnato la maggioranza relativa dei seggi, 4, al partito separatista di destra dell'Alleanza Neofiamminga. Ma tra la gente che incontriamo qui, quasi tutti sono convintamente eurofili. Riassume per tutti Karine, signora belga di una cinquantina d'anni, che parla un ottimo italiano. Per lavoro organizza infatti scambi culturali. Sono importanti perché stiamo facendo l'Europa, che secondo me non è ancora abbastanza forte. C'è una coscienza che ancora manca, quindi è molto importante per noi tutti andare a votare e costruire questa Europa che ci serve, ce n'è bisogno a tutti i livelli, economico, politico, sociale e chiaramente per mantenere la pace. Ha paura di questa onda euroscettica che si annuncia? Sì, ne ho paura perché secondo me questa onda sta distruggendo quello che piano piano stiamo cercando di fare. Quindi è come, diciamo, un'onda che può essere molto cattiva e pericolosa. Je voudrais les cadreurs en place et au casque, pardon. Qualche ora più tardi, domenica 25 maggio, l'atmosfera entra nel vivo al Parlamento europeo di Bruxelles. Gli oltre 1000 giornalisti presenti affollano l'emiciclo, trasformato in un'enorme sala stampa con atmosfera notturna e scenografia da premio Oscar, mentre nel resto dell'edificio gli inviati dei principali network europei e mondiali allestiscono veri e propri set televisivi. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Mehrheit für einen Kommissionspräsidenten Martin Schulz im Europäischen Parlament. Alle 18 la prima scossa, in coincidenza con l'exit poll dalla Germania. Un euforico Martin Schulz a Berlino vede nel forte incremento della SPD tedesca il viatico verso la vittoria del gruppo socialista. Per lui questo significherebbe la probabile elezione a presidente della Commissione europea. Ma lo shock generale arriva invece alle 20, avvolto dalla bandiera francese. I primi exit poll transalpini lasciano poco spazio alle speranze. Il Front National è il primo partito del paese. I conservatori dell'UMP staccati di circa 6 punti, mentre crollano i minimi storici i socialisti del presidente François Hollande. Un brivido si diffonde all'Europarlamento. Non penso che il progetto europeo sia a rischio, dice la candidata verde Ska Keller rispondendo a una domanda di Radio 24. Il problema, aggiunge, è che gli euroscettici che abbiamo visto al lavoro negli ultimi 5 anni al Parlamento sono state persone buone solo a fare grandi discorsi contro l'Europa, senza mai lavorare. Per me non è possibile collaborare con persone che negano i diritti umani dei migranti, che non vogliono un salario uguale per uomini e donne. Comunque, dice la Keller, penso che il prossimo Parlamento europeo sarà pienamente operativo. Triste si definisce invece Joseph Daul, presidente dei Popolari Europei. Le citoyen d'abord il a voté un peu plus. I cittadini hanno votato di più. Abbiamo visto paesi dove il populismo è cresciuto, paesi dove è calato. Noi dobbiamo combattere il populismo. Io sono triste per la Francia, sono triste per quello che è successo nel mio paese, ammette Daul a Radio 24. E il capogruppo socialista all'Europarlamento Hans Svoboda sembra voler scaricare tutta la colpa sul centrodestra francese. Well, of course it's a shock that what was forecasted also. È uno shock, dice Svoboda. Ciò che era previsto è diventato realtà. Il messaggio è chiaro: se i conservatori francesi dell'UMP parlano con gli stessi toni e accenti del Front National, non tolgono voti a Marine Le Pen, ma glieli regalano, come è successo. Intorno alle 22.10 le prime proiezioni sull'affluenza forniscono una piccola consolazione. Il temuto nuovo crollo di elettori non c'è stato. Anche stavolta ha votato il 43% dei cittadini europei. 20 minuti dopo, i primi exit poll indicano lo schieramento vincitore, i popolari di centrodestra, che, nonostante un netto calo di 7 punti, ottengono oltre 20 seggi in più rispetto ai socialisti. 10 minuti dopo, Daul annuncia che il Partito Popolare Europeo chiederà la nomina di Jean-Claude Juncker a presidente della Commissione Europea. E poco dopo la mezzanotte, Juncker annuncia ufficialmente la propria vittoria. Je suis prêt à accepter le mandat de président de la commission. Sono pronto ad accettare il mandato di presidente della Commissione europea, dice, prima di lanciare un attacco contro i possibili nemici, quasi tutti i suoi ex colleghi leader europei che vorrebbero ignorare il risultato elettorale scegliendo un altro esponente politico per il ruolo. Lo sconfitto Martin Schulz, dal canto suo, rinvia ogni presa d'atto ufficiale. Crede infatti ancora che, pur da candidato del secondo schieramento, sia possibile costruire una maggioranza alternativa all'Europarlamento per ottenere la nomina a presidente della Commissione. Qualche ora più tardi, i socialisti europei dovranno però ammettere che sarà Juncker a tentare per primo la costruzione di una maggioranza parlamentare a Strasburgo. Quasi in contemporanea, proprio Juncker, e siamo a lunedì mattina, ribadisce che il prossimo presidente della Commissione sarà lui e che chiederà il mandato per comporre il nuovo esecutivo. L'unica maggioranza possibile che intravede, dice, è una grande coalizione PPE-PSE. E il protagonista del giorno è anche il PD di Matteo Renzi, la cui schiacciante vittoria in Italia sorprende tutti. Ci congratuliamo col PD e con Renzi, quello dell'Italia è un risultato eccezionale, afferma Sergei Stanishev, presidente del Partito Socialista Europeo. Radio 24 chiede intanto a Juncker se non intraveda il rischio di un potenziale scontro sulle direttrici politiche tra la sua linea di austerità e il programma di Renzi, mirato a più crescita e occupazione. Questo in vista del semestre di presidenza italiano dell'Unione Europea. Abbiamo da un lato il bisogno di consolidare le nostre politiche di bilancio e dall'altro quello di sviluppare politiche per la crescita e l'occupazione. Non c'è contraddizione, afferma Juncker. Ho il massimo rispetto per Matteo Renzi. Lui ha già reso chiaro che rispetterà gli impegni presi dall'Italia con l'Europa. Non vedo problemi. Se un governo vuole cambiare le regole in Europa, occorrerà un cambio di trattato che richiede l'unanimità. Non sono ancora presidente della Commissione. Se lo diventerò, discuterò di tutto questo con la presidenza italiana. Tempo ora di fermarci un attimo e fare una breve pausa di analisi del voto. Lunedì mattina, a poche ore dalla chiusura dei seggi, incontriamo Doru Frantescu, direttore di Vote Watch, organizzazione che per mesi ha seguito l'evolversi dei sondaggi paneuropei. Con lui tracciamo un primo bilancio. Sì, guardiamo quali sono i risultati di oggi e facciamo un paragone con i risultati di 5 anni fa. Vediamo che abbiamo questa sorpresa di anti-europei che hanno vinto quasi un terzo dei posti nel Parlamento europeo e questo certo che avrà delle conseguenze in quello che riguarda il processo di integrazione europea. A livello di dati, quali sono state le principali variazioni che avete osservato tra sondaggi e poi i risultati finali? Beh, ci sono variazioni in particolare in Francia, dove alcuni sondaggi davano il Front National come vincitore, ma non tutte. Abbiamo visto che alla fine sì, il Front National ha vinto le elezioni in Francia e la stessa cosa si può dire sull'Inghilterra, dove il partito di Nigel Farage, l'United Kingdom Independent Party, sembra di aver vinto le elezioni, quindi contro alcuni sondaggi che davano i Labour Party come vincitori. E arriviamo così a martedì 27 maggio, giorno in cui l'Europa è chiamata a dare le prime vere risposte. A ora di pranzo una riunione straordinaria dei capigruppo politici dell'Europarlamento mette in campo la prima mossa. Jean-Claude Juncker viene formalmente incaricato a maggioranza di cercare una coalizione parlamentare in grado di appoggiarne la nomina a presidente della Commissione. Ad annunciarlo il presidente dei popolari, Doll. On a désigné Jean-Claude Juncker pour commencer les négociations avec les groupes du Parlement. The European Parliament will recommend to appoint Jean-Claude Juncker. Anche il rivale di Juncker, Martin Schulz, deve concedere la sconfitta, mentre il suo gruppo, i socialisti, pone tra le condizioni l'assegnazione proprio a Schulz di un portafoglio di peso nella prossima Commissione europea. Tra chi invece non ci sta e vota contro la candidatura di Juncker c'è Nigel Farage, leader dello UK Independence Party. We've just had a quite dramatic European election. Abbiamo appena avuto drammatiche elezioni europee con l'avanzata di nuovi partiti euroscettici ed estremamente nazionalisti. Una vasta gamma di partiti, dal centro, dalla sinistra, dalla destra. Il Parlamento ha ora in sé una nutrita voce di dissenso, eppure, come ho sostenuto davanti a tutti, non si pensa affatto a quanto successo domenica. Tutto va avanti come sempre, e il nome di Juncker è la prima proposta sul tavolo come prossimo presidente della Commissione. In un momento in cui sta crescendo l'opposizione al progetto europeo e al concetto di centralità, viene proprio proposto il nome di un uomo che rappresenta e sostiene tutto questo. They've decided to go for a man who is a raving federalist. Il summit che chiude la 3 giorni prende il via martedì sera. L'attesa è grande. In palio non c'è solo la nomina a presidente della Commissione europea o l'avvio della grande partita per le nomine nelle posizioni chiave in Europa. In palio c'è la stessa credibilità dell'Unione. Uno dei primi 28 leader europei ad arrivare al Palazzo Justus Lipsius, che ospita il vertice, è proprio il premier italiano Matteo Renzi. Io sono qui in questa sede a rappresentare l'Italia. Rappresento dunque uno dei più grandi paesi dell'Unione Europea, un paese che intende affrontare le tante questioni che sono sul tavolo della discussione con decisione, con determinazione. E credo che sia necessario portare l'Europa a parlare del linguaggio concreto dei cittadini. Questo è quello che interessa a noi italiani, questo è quello che faremo sentire con grande determinazione nel corso di questo percorso che inizia adesso, che parte con il vertice informale di oggi, che proseguirà con l'appuntamento del 26 e 27. E quindi tutte le discussioni sui nomi, per quello che ci riguarda, vengono dopo rispetto all'accordo su che cosa dobbiamo fare. Qui c'è bisogno di un'Europa che sia più attenta agli investimenti sulla scuola, più attenta agli investimenti sulle infrastrutture tecnologiche, più attenta alla condizione di vita quotidiana delle famiglie. Questo è il nostro obiettivo e di questo discuteremo. Quando manca meno di un'ora a mezzanotte, tocca al presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy annunciare che l'Europa, per ora, risposte non ne dà. I 28 leader hanno incaricato lui, Van Rompuy, di sondare i nuovi gruppi politici all'Europarlamento per trovare un consenso sul nome del nuovo presidente della Commissione. Il nome di Juncker non piace a tutti i capi di Stato e di Governo, Gran Bretagna, Ungheria e Svezia in primis. Si cerca una soluzione di compromesso. E si torna al via, come nel gioco dell'oca. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.